البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. لا لا لا لا لا لا لا لا. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. Buongiorno Palestina. Due trasmissioni al mese su Radio Wombat, sempre il mercoledì alle 17.30. Questa di oggi è la nostra ultima trasmissione prima dell'intervallo estivo. Una trasmissione, come ogni mese, dedicata interamente a notizie di stampa. Una selezione stampa curata, come sempre, da Amicizia Italo-Palestinese e una rassegna stampa curata da Zeitun, un'associazione che, insieme ad altre che si sono susseguite nel tempo, si impegna a collaborare con noi per un'informazione costante sulla questione palestinese. Zeitun in arabo vuol dire ulivo, e l'ulivo è il simbolo della resistenza di un intero popolo. Il sito Zeitun cura, traduce, pubblica e diffonde articoli e libri sulla Palestina. Nel lasciarvi con questa ultima trasmissione, ma per poi ritrovarvi a settembre, quando riprenderanno con cadenza quindicinale le nostre trasmissioni, ci permettiamo di fare un breve bilancio. Negli ultimi due anni di pandemia siamo riusciti a mantenere una regolarità nelle trasmissioni, anche se da settimanali sono passate ad avere una cadenza quindicinale. L'interfaccia grafica di Radio Wombat sul web è stata interamente rinnovata e migliorata, e non solo graficamente, ma anche funzionalmente, modo da consentirci di postare commenti, scaricare il podcast di ogni trasmissione e avere quindi un contatto più diretto con il nostro pubblico che ci ascolta. L'obiettivo è stato e ancora quello di fornire un'informazione documentata e aggiornata sulla Palestina, che renda la trasmissione utile, interessante e gradita. Purtroppo gli avvenimenti dello scorso maggio in Palestina ci dicono che il ritorno alla situazione che li ha preceduti non è una soluzione. A riaffermare il sostegno alla resistenza palestinese si è svolta venerdì scorso a Firenze una vivace e partecipata riunione del Comitato Firenze per la Palestina, in cui è stato deciso per sabato 26 giugno una grande manifestazione da tenersi in piazza Strozzi, con un corteo che arriverà fino a piazza Santa Maria Novella. Siete quindi tutti invitati ad invitare a partecipare a questa grande manifestazione con bandiere e cartelli. Prima della consueta selezione stampa, a cura di Amicizia Italo-Palestinese e della rassegna stampa mensile a cura di Zeitun, come vi abbiamo già annunciato, vi anticipiamo che nella consueta rassegna musicale di oggi lanceremo un concorso aperto a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno Palestina, sono Claudio per la selezione stampa di Amicizia Italo-Palestinese delle ultime due settimane. Informazione vera e falsa. Un articolo amaramente ironico dal titolo «Noi rifugiati palestinesi ci scusiamo con i tedeschi per la nostra impudenza». L'articolo è rivolto ai tedeschi, i quali così acriticamente sostengono Israele, e nell'articolo si elenca invece la ampia messe di informazioni genuine, disponibile ma non utilizzata e volutamente ignorata dai media mainstream. Prima e dopo il cessate il fuoco. Si tratta di un quadro ragionato della situazione attuale da parte di Adam Schatz, giornalista inglese e collaboratore anche del New Yorker. Dice Schatz che mentre il 95% dei razzi di Hamas ha fallito di colpire Israele, il 100% di questi razzi ha colpito invece il suo altro obiettivo, e cioè l'autorità nazionale palestinese, in quanto ora Hamas si presenta come maggiore protettore della causa palestinese. Con la tregua, il ritorno alla situazione precedente, dice l'articolo, non è la soluzione, ma è il problema. E rileva come questo l'hanno capito ormai molti, anche all'interno del mondo ebraico, tra cui, cita, la rivista ebraica di sinistra Jewish Currents. Sullo stesso argomento del dopo il cessate il fuoco ritorna Gideon Levy con un pessimistico articolo dicendo che si intitola La normalità israeliana che alimenta la guerra. È un articolo su Internazionale in cui Levy descrive ignoranza, indifferenza per l'altra parte e ottusità della società e dei politici israeliani, e quindi impossibilità di intravedere una luce di serio confronto. Intifada o non intifada? Questo non è il problema. È un articolo in cui si dice che considerare o meno quello che è avvenuto nel mese di maggio come terza intifada non è importante. Ciò che rende unica l'insurrezione attuale è che i palestinesi agiscono ancora una volta all'unisono per chiedere libertà, dignità e uguaglianza. Israele, lo stato dell'illegalità internazionale, tutte le risoluzioni ONU violate. Israele ha il record mondiale per violazioni di risoluzioni delle Nazioni Unite. Globalist ne ha fatto una ricerca di archivio ed è venuto fuori un quadro che la stampa mainstream non pubblicherà mai. Nell'articolo ci sono tutte queste, una per una, le risoluzioni violate, elencate e descritte con i rispettivi argomenti. Sullo stesso argomento, un saggio dal titolo La questione israeliana di Micol Savia, rappresentante di giuristi democratici presso le Nazioni Unite a Ginevra, che già abbiamo intervistato in aprile con Buongiorno Palestina. In questo saggio vengono riassunti i capisaldi giuridici del regime israeliano imposto ai territori palestinesi occupati, compreso l'aspetto dell'apartheid. A questo proposito, l'articolo contiene anche una cronologia dettagliata delle tappe dell'apartheid, quello sudafricano, dall'inizio fino a quando è stato superato. Due ex ambasciatori israeliani in Sudafrica si uniscono alle accuse di apartheid contro Israele. Si tratta di una notizia ampiamente pubblicizzata sia su Mondo Vice che su Haaretz che sul Manifesto. Questi due furono ambasciatori israeliani a Pretoria, uno per 2 anni nel 1992 e l'altro per 3 anni nel 2005. I due confermano le tesi di Human Rights Watch e degli altri rapporti che descrivono Israele senza mezzi termini come apartheid, parlando anche di un viaggio insieme a Sharon nel 1980, da notare 10 anni prima della fine dell'apartheid sudafricana, in cui in questo viaggio del 1980 Sharon si mostrò ammirato dei Bantustan sudafricani in cui era relegata la popolazione nera e molto interessato a replicarli in Israele. I progressisti israeliani, Michael Sfard, avvocato israeliano e autore di questo articolo sul Guardian, afferma: quando ho sentito per la prima volta parlare di apartheid israeliano 20 anni fa, ho respinto l'idea. Ora invece lo stesso Sfard conferma studi e rapporti che ormai da ogni parte inoppugnabilmente accusano Israele. Israele ha un nuovo arabo buono nel governo, ne discute Rami Yunisun, giornalista e regista palestinese, a proposito dell'appoggio al nuovo governo israeliano da parte della destra islamica costituita dal partito Ra'am. Questo avviene sulla base di una promessa di incanalare dei soldi verso alcune comunità arabe in un qualche futuro, e anche la promessa della formazione di un comitato della Knesset per discutere il riconoscimento di una manciata di villaggi beduini. Palestina in foto, maggio 2021. Il maggio 2021 ha segnato una svolta nella lotta anticoloniale palestinese per la liberazione. L'articolo ne fornisce una ampia documentazione fotografica sia per gli avvenimenti a Gerusalemme che nel resto della Palestina e a Gaza. Con questo concludo la selezione stampa di Amicizia Italo-Palestinese, sul cui sito potete leggere gli articoli di cui ho parlato, li troverete in italiano e con le rispettive fonti originali. Una rassegna stampa più ampia seguirà tra breve a cura di Zeitun. Subito dopo un intervallo أنا musicale. يوسف يا أبي يا أبي إخوتي لا يحبونني عندما مر النسيم ولا عبا شعري غار لا يريدونني بينهم يا أبي غار وثاروا علي صاروا عليك فماذا صنعت لهم يا أبي أنا يوسف يا أبي يوسف يا أبي يا أبي أنا يوسف يا أبي يا أبي إخوتي لا يحبونني زيتون. Oltre a partecipare ad una serie di attività di solidarietà con il popolo palestinese, consci dell'evidente parzialità a favore di Israele che caratterizza quasi tutti i media italiani, Zeitun ha iniziato da circa 6 anni un lavoro di traduzione di articoli della stampa internazionale che raccontano quanto avviene in Israele e Palestina da una diversa prospettiva. Dal 2015 sono passati da una mailing list alla creazione di un sito che consente ad un numero maggiore di persone di leggere gli articoli tradotti e la creazione di un archivio facilmente consultabile. Molti articoli sono stati scritti da giornalisti israeliani, ma anche da palestinesi, la cui voce non viene quasi mai riportata dalla stampa nazionale, da reporter ed esperti di altre nazionalità. Le principali fonti da cui hanno ricavato i testi da tradurre sono il quotidiano israeliano Haaretz, il sito israeliano più 972 e quelli palestinesi di Electronic Intifada, Al-Shabaha, Ma'an News ed altri che si occupano in generale di Medio Oriente come Middle East Eye e Middle East Monitor. La selezione degli articoli è fatta da Amedeo Rossi e Carlo Tagliacozzo. Il gruppo dei traduttori comprende Aldo Lotta, Amedeo Rossi, Cristiana Cavagna, Giuseppe Ponzetti, Luciana Galliano, Mirella Alessio e Stefania Fusero. يريدونني أن أموت لكي يمدحوني. أن أموت لكي يمدحوني وهم أوصدوا باب بيتك دوني أطولوا باب بيتك وهم طردوني من الحقل وهم طردوني من الحقل هم سمموا عنبي وهم سمموا عنبي يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي, يا أبي وهم حطموا لعبي يا أبي حين مر النسيم ولعب الشعر يغار وثاروا علي وثاروا عليك فماذا صنعت لهم يا أبي الفراشات حطت على كتفي ومالت علي السنابل ومالت علي السنابل والطير نامت على راحتي فماذا فعلت أنا فماذا فعلت أنا يا أبي ولماذا أنا فماذا صنعت أنا يا أبي Buongiorno, sono Luciana Galliano. per la rassegna stampa di Zeitun. Gli avvenimenti di maggio a Gerusalemme Est, con la repressione delle proteste contro l'espulsione a Sheikh Jarrah, l'attacco della polizia israeliana alla moschea di Al-Aqsa e l'ennesima sanguinosa operazione militare a Gaza, sono stati raccontati dai media italiani in modo distorto. Ne parla Cecilia Dalla Negra, giornalista e ricercatrice, sulle pagine in italiano del sito Orient 21, diretto dal noto giornalista francese Alain Gresh. Nell'articolo, significativamente intitolato Le parole per dirlo, Dalla Negra denuncia, cito, una disputa sulle case, poco più di una scaramuccia burocratico-amministrativa combattuta a colpi di sfratti. A questo si è ridotta per la gran parte dei media italiani la motivazione alla base di una nuova puntata della irrisolta o anche annosa, infinita o irrisolvibile, purché comunichi un senso di estrema complessità, guerra tra israeliani e palestinesi, anzi tra Israele e Hamas, assurto oggi a esclusivo rappresentante della totalità dei palestinesi, generalmente definiti solo arabi, denuncia la giornalista. È dalla ridefinizione del lessico utilizzato per descrivere gli avvenimenti, sostiene Dalla Negra, che bisogna partire. Conflitto, scontro, guerra, resilienza lasciano posto a colonialismo, apartheid, pulizia etnica, resistenza. Parole che sono state deprivate del loro senso originario, trasfigurate, sovrapposte. E se ciò che non viene nominato non esiste, è proprio dalla scelta delle parole usate per raccontare che forse occorre ripartire. Purtroppo pare che le cose non vadano nel senso auspicato da Dalla Negra. Ad esempio, il sito di notizie Middle East Monitor informa che la BBC, rete pubblica britannica, spesso portata ad esempio di professionalità e indipendenza, su pressione dell'Associazione Giuristi del Regno Unito per Israele, ha tolto dalla programmazione di un suo programma educativo una serie di video sulla Palestina, sull'occupazione e sulla continua pulizia etnica. Il gruppo lobbistico ha accusato il ciclo di lezioni di essere sbilanciato e partigiano, che avrebbe incoraggiato comportamenti illegali nelle scuole. Quello che invece sta ripartendo è il processo di espulsione dei palestinesi da Sheikh Jarrah. Ne ha parlato l'8 giugno un editoriale del quotidiano israeliano Haaretz a proposito della decisione del procuratore generale di non occuparsi della vicenda. Cito: la decisione del procuratore generale Avichai Mandelblit di non intervenire nei casi di sfratto nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme non fa che corroborare la tesi dei coloni secondo i quali questa è una semplice causa civile con proprietari di case impegnati a sfrattare inquilini abusivi. Ma la decisione ignora il ruolo decisivo svolto dalle autorità statali che hanno concesso la proprietà di un quartiere abitato da centinaia di palestinesi ad un'organizzazione di destra di coloni. Come ricorda l'articolo, cito, nel 1948 molte persone lasciarono i propri beni e fuggirono. La maggior parte di loro erano palestinesi che lasciarono moltissime proprietà sul lato occidentale e scapparono ad Oriente. Una piccola minoranza furono ebrei che fecero il percorso inverso. Le leggi israeliane consentono solo a questi ultimi di riavere i propri beni, negandoli ai primi. L'argomentazione giuridica che lo consente può suonare ragionevole in un tribunale israeliano, ma è impossibile da spiegare in un contesto internazionale. Niente lo renderebbe logico o etico per una persona ragionevole. L'articolo si chiude con una denuncia del ruolo dello Stato e con un auspicio che difficilmente verrà ascoltato. L'arruolamento dei dipendenti statali, dal procuratore generale all'ultimo dei poliziotti, al servizio dell'attività di espulsioni e colonie a Sheikh Jarrah è causa di imbarazzo per Israele. Procura danni morali, danneggia la diplomazia pubblica e costituisce un rischio per la sicurezza di tutti gli israeliani. Auguriamoci che il nuovo governo mostri maggiore considerazione e ordini al procuratore generale di intervenire a favore del buonsenso e della giustizia. La ragionevolezza sperata non sembra guidare le azioni dell'attuale governo israeliano. Un articolo di Mondo Vice racconta del violento arresto della giornalista di Al Jazeera Givada Budeiri e dei Jelaili al-Kurd, attivisti di Sheikh Jarrah noti a livello internazionale. Scrive il sito: immagini mostrano Budeiri, con in evidenza la scritta stampa, mentre esibisce le sue credenziali alle forze israeliane che la spingono e la afferrano nel tentativo di arrestarla. La giornalista è stata rilasciata parecchie ore dopo, con l'imposizione di non recarsi a Sheikh Jarrah per 15 giorni. In seguito al violento arresto ha subito la frattura di un braccio. Neppure il fatto che sia stata brutalmente aggredita una loro collega ha sollecitato l'attenzione dei giornalisti italiani. Lo stesso articolo racconta che il giorno dopo anche Moon e Mohammed al-Kurd sono stati arrestati e rilasciati poche ore dopo. Citando la Reuters, Mondovice afferma che il portavoce della polizia israeliana ha dichiarato che per ordine del tribunale è stato arrestato un abitante di Gerusalemme Est. L'intervento delle forze israeliane ha riguardato anche giornalisti e sostenitori degli arrestati. Una conferenza stampa tenuta dalla famiglia al-Kurd fuori dalla stazione di polizia prima del rilascio dei gemelli sarebbe stata dispersa dalle forze israeliane che hanno sparato granate assordanti contro la folla. La tensione a Gerusalemme d'Est è destinata ad aumentare in quanto, come afferma Al Jazeera, il governo Netanyahu, dopo un iniziale divieto, ha deciso di consentire a un corteo di estremisti di destra e di coloni di sfilare martedì 15 giugno per le vie della città vecchia. Un alto dirigente di Hamas ha avvertito Israele di non consentire che la marcia si avvicinasse a Gerusalemme Est e al complesso della moschea di Al-Aqsa. Speriamo, ha affermato, nella citazione che compare sul sito di Al Jazeera, che il messaggio sia chiaro in modo che martedì non diventi un nuovo 10 maggio, riferendosi all'inizio dello scontro di 11 giorni del mese scorso tra Israele e Hamas. Ma se, come è probabile, dietro a questa decisione c'è la volontà da parte di Netanyahu di lasciare un boccone avvelenato in eredità al governo che lo dovrebbe sostituire, è probabile che la situazione potrà degenerare. A proposito dell'operazione militare israeliana che ha ucciso oltre 250 palestinesi, tra cui 66 minorenni, il sito We Are Not Numbers ha pubblicato una lettera al mondo scritta da un abitante di Gaza. «Caro mondo», scrive Bas Manderawi, «che tipo di resistenza vuoi che pratichi? Armata, disarmata o nessuna? Che muoia semplicemente in silenzio in modo da non darti fastidio? Che tipo di resistenza faresti se la tua casa venisse rubata, la tua vita fosse semplicemente nelle mani di qualcun altro? Qualcuno che sostiene che il suo Dio gli ha promesso la tua terra? Caro mondo, non ho il diritto di resistere. L'occupazione è forse giusta, non faresti lo stesso se fossi nei miei panni?» Infine, una nuova brutta notizia per Israele arriva dal sito sudafricano Ground Up. Infatti, ai due rapporti resi pubblici ad aprile di quest'anno, uno dell'OGN israeliana per i diritti umani B'Tselem e l'altra di Human Rights Watch, in cui si afferma che Israele pratica un sistema di apartheid sia al suo interno che nei territori palestinesi occupati, si è unita anche la voce di due ex ambasciatori israeliani nel paese australe. In una lettera pubblicata sul sito e ripresa da altri mezzi di informazione, Ilan Baruch e Alon Lil affermano: «Per oltre 50 anni Israele ha governato i territori palestinesi occupati con un sistema legale a due regimi, secondo cui in Cisgiordania, nello stesso territorio, i coloni israeliani sono soggetti alla legge civile israeliana, mentre i palestinesi sono sottoposti alla legge militare. Il sistema contiene un'intrinseca diseguaglianza. In questo contesto, Israele ha operato per cambiare sia la geografia che la demografia della Cisgiordania tramite la costruzione di insediamenti che sono illegali ai sensi del diritto internazionale. Questa situazione ci ricorda una storia che l'ex ambasciatore Avi Primor ha descritto nella sua autobiografia a proposito di un viaggio in Sudafrica agli inizi degli anni Ottanta con Ariel Sharon, allora ministro della difesa. Durante la visita Sharon aveva espresso grande interesse per il processo dei Bantustani in Sudafrica. Anche solo una rapida occhiata alla mappa della Cisgiordania lascia pochi dubbi su dove Sharon abbia tratto ispirazione. Israele è il solo potere sovrano che opera in questa terra e discrimina sistematicamente in base a nazionalità ed etnia. Tale realtà è, come abbiamo visto noi stessi, apartheid. È ora che il mondo riconosca che quello che abbiamo visto in Sudafrica decenni fa sta succedendo anche nei territori palestinesi occupati. Questa lettera si chiude con un appello alla comunità internazionale. E proprio come il mondo si unì nella lotta contro l'apartheid in Sudafrica, è ora che intervenga con un'azione diplomatica decisiva nel nostro caso e operi per costruire un futuro di uguaglianza, dignità e sicurezza sia per i palestinesi che per gli israeliani. Se persino due diplomatici israeliani osano denunciare in termini così espliciti quanto avviene nei territori palestinesi occupati, significa che ormai la cortina di fumo dietro la quale Israele è riuscita a nascondere le sue politiche discriminatorie si sta finalmente diradando e la risposta non potrà essere diversa da quella che ha contribuito a porre fine al regime di apartheid in Sudafrica. È solo questione di tempo. Grazie. Thank you. Close your eyes to the things that you don't want to see. Close your heart to the things that you don't want to feel. Close the door to the people that you don't want to face. Close the window, cause it's such a vulnerable place. Close the pan before the people had a chance to eat. Close the lid on the story to appease the street. Close the border with an order to suffocate. Close the oxygen supply and then say, is that a lie? Lies limiting our space. Also limits yourself. Tagliacozzo della redazione di Zeitung. Oltre ai tragici avvenimenti di maggio, in queste ultime settimane sono stati problemi politici che affliggono sia Israele che l'autorità nazionale palestinese ad aver occupato le pagine dei media. Il rapporto tra la violenta repressione poliziesca a Gerusalemme e la situazione politica israeliana è stato suggerito a metà maggio da un articolo scritto per Al Jazeera dal giornalista israeliano Akiva Eldar. Il primo ministro israeliano in carica non ha fatto alcuno sforzo per contenere la violenza. Il mese scorso avrebbe potuto ordinare alla polizia di rimuovere i blocchi stradali dalla porta di Damasco nella città vecchia di Gerusalemme. Perché ha aspettato fino a quando non è diventato un terreno di scontro tra la polizia e centinaia di giovani palestinesi? Perché ha permesso alla polizia di gettare granate stordenti dentro la moschea di Al-Aqsa durante la preghiera? Secondo Eldar, Yair Lapid, il principale avversario politico di Netanyahu, due mesi fa, aveva fatto una previsione che si è rivelata esatta. Poco dopo le elezioni del 23 marzo, Lapid ha incontrato Benny Gantz, ministro della difesa, e capo dell'alleanza blu e bianco, e gli avrebbe detto: se Netanyahu sente che gli sta sfuggendo di mano il governo, cercherà di creare un incidente riguardante la sicurezza a Gaza o lungo il confine nord. Se pensa che questo sia l'unico modo per salvarsi, non esiterà un attimo. Un cinismo che ha ritardato di qualche giorno i colloqui per formare una coalizione alternativa, ma che è costato la vita a oltre 250 palestinesi, tra cui 66 minorenni e a 12 israeliani. Se non fosse stato per le manifestazioni di protesta in tutto il mondo e per le pressioni politiche, soprattutto degli USA, probabilmente l'attacco sarebbe durato per molto più tempo. Se l'intenzione di Netanyahu era quella di far fallire sul nascere la creazione di un'alleanza che lo escludesse dal potere, sembra che questo tentativo sia fallito. Infatti, mercoledì 2 giugno, Lapid, incaricato di formare una maggioranza dopo i falliti tentativi di Netanyahu, ha informato il presidente della Repubblica Rivlin di aver raggiunto i 61 voti necessari. Domenica scorsa, dopo un dibattito burrascoso e a tratti surreale, il nuovo governo, composto da 8 partiti, ha ottenuto la fiducia con 60 voti contro 59 e grazie a un astenuto. In un articolo dedicato soprattutto a criticare la decisione di Mansour Abbas, leader di un partito arabo islamista, di partecipare a un governo che comprende solo partiti sionisti, dalla sinistra all'estrema destra più razzista, sul sito Middle East Monitor, Ramzi Baroud chiarisce chi siano i principali protagonisti di questa operazione politica. Lapid è un ex conduttore televisivo. Nonostante sostenga di essere un centrista, le sue opinioni politiche sono assolutamente di destra. Il problema è che personaggi come Bennett, Ayelet Shaked, anche lei di Yamina e ovviamente Netanyahu hanno spostato il centro dello spettro politico di Israele talmente a destra che la destra è diventato il centro e l'ultradestra è diventata la destra. È così che politici israeliani neofascisti ed estremisti sono diventati i principali protagonisti della politica israeliana. Bennett, per esempio, che nel 2013 si è vantato di aver ucciso molti arabi nella sua vita, dovrebbe diventare il primo ministro di Israele. Ed è quello che è successo ieri. Chiarisce ulteriormente la figura di Bennett un approfondito articolo scritto da Sylvain Sipel, giornalista e saggista francese sul sito Orient 20 ans. Aperta citazione. Bennett viene da una scuola di pensiero che privilegia la mistica della terra insieme a una mentalità colonialista e un razzismo espliciti. E lo vuole radicare più ancora di quanto già lo sia. L'articolo ricorda che durante un dibattito televisivo con un deputato arabo-israeliano, Bennett affermò: quando già esisteva uno Stato ebraico, voi vi arrampicavate ancora sugli alberi. L'idea che aveva espresso, nota il giornalista francese, cioè assimilare gli arabi alle scimmie come facevano con i neri i suprematisti bianchi del sud degli Stati Uniti, non gli era affatto estranea. Bennett si è avvicinato fin da giovane all'ebraismo nazionale religioso, identificandosi con i nuovi pionieri che intendono non solo conquistare la terra, ma anche fare di questa ambizione il cuore ideologico e spirituale della nazione. Costruiscono un avvenire che avvicina la redenzione. Altra citazione. Queste sono le radici ideologiche dell'uomo che dovrebbe rappresentare l'alternativa a Netanyahu. Quanto al programma di governo pubblicato da Haaretz, le sue linee guida prevedono solo questioni riguardanti il mondo ebraico israeliano, come la nomina del rabbino capo e sulle conversioni all'ebraismo, che interessano soprattutto all'elettorato di origine russa. Una commissione parlamentare sull'incidente del Monte Meron in cui sono morti 45 fedeli, o una legge per limitare a 8 anni il mandato del primo ministro. A parte un consistente incremento degli stanziamenti per la minoranza araba per garantirsi i voti del partito islamista, i palestinesi alla questione dei territori occupati sono totalmente assenti. Ma non è detto che Netanyahu si sia rassegnato ad essere messo da parte. Un articolo del Middle East Eye evidenzia il rischio che si ripeta quanto avvenuto dopo la sconfitta elettorale di Trump, o peggio ancora, con la campagna di odio guidata da Netanyahu e Sharon che portò all'uccisione di Rabin nel 1995. Nel giro di una settimana, afferma il sito, l'ormai ex primo ministro ha citato i libri sacri per 2 volte per evocare la collera di Dio, il tradimento dei profeti e le spie bibliche che hanno indebolito lo spirito delle genti. Benché abbia fatto riferimento ai testi antichi, il messaggio di Netanyahu è chiaro. I suoi rivali di oggi sono dei traditori che hanno tradito il popolo di Israele, proprio come nella Bibbia. Ha definito Bennett bugiardo compulsivo, le elezioni di marzo la più grande frode elettorale nella storia del paese ed ha accusato il cosiddetto Stato profondo in Israele di aver incoraggiato la formazione di un governo di sinistra pericoloso, appoggiato da sostenitori del terrorismo. Ma a differenza del 95, questa volta si tratta di una partita che si gioca tutta a destra. Benché i sostenitori di Netanyahu accusino Bennett e i deputati del suo partito, Yamina, tutti credono nella stessa causa, costruire colonie e annettere la Cisgiordania, screditare il sistema giudiziario e confermare la supremazia ebraica sui cittadini palestinesi di Israele. A peggiorare le cose, afferma l'articolo, alcuni grandi rabbini ultraortodossi, considerati capi spirituali dei partiti di destra, hanno chiamato i loro sostenitori a tentare di fare il possibile perché il nuovo governo Bennett-Lapid non si concretizzi. Si preannuncia una vita molto dura per il nuovo già fragilissimo governo che Netanyahu farà di tutto per far fallire. Oh voi, viaggiatori tra parole fugaci, portate i vostri nomi ed andatevene. Ritirate i vostri istanti dal nostro tempo ed andatevene. Rubate ciò che volete dall'azzurrità del mare e dalla sabbia della memoria. Prendete ciò che volete di immagini per capire che mai saprete come una pietra dalla nostra terra erige il soffitto del nostro cielo. Oh voi, viaggiatori tra parole fugaci, da voi la spada, da noi il sangue, da voi l'acciaio, il fuoco e da noi la carne, da voi un altro carro armato e da noi un sasso, da voi una bomba lacrimogena, da noi la pioggia. Abbiamo qui ciò che non vi accontenta, abbiamo ciò che non c'è in voi. Una patria sanguinante, un popolo sanguinante, una patria adatta all'oblio e alla memoria. Oh voi, viaggiatori tra parole fugaci, è giunto il momento che ve ne andate, ve ne odiate dove volete, ma non tra noi. È nostra la prima voce della vita, nostro il presente futuro, nostra, qui, la vita è nostra l'eternità. Fuori dalla nostra patria, dalla nostra terra, dal nostro mare, dal nostro grano, dal nostro sale, dalla nostra ferita, da ogni cosa. Uscite dai ricordi della memoria. Oh voi, viaggiatori dalle parole fugaci. Palestinese le cose non vanno molto meglio. A fine aprile il governo dell'autorità nazionale palestinese ha rinviato sine die le elezioni parlamentari previste a maggio e le presidenziali a luglio. La ragione ufficiale è stata che Israele non avrebbe consentito ai palestinesi di Gerusalemme Est di partecipare al voto. In realtà le previsioni erano disastrose sia per Fatah, che tutti davano per sconfitto da Hamas, che per lo stesso Abu Mazen, che alle presidenziali avrebbe sicuramente perso contro l'ex compagno di partito Marwan Barghouti, attualmente in carcere in Israele. Gli avvenimenti di maggio a Gerusalemme Est e a Gaza hanno ulteriormente indebolito la posizione dell'autorità nazionale palestinese. Secondo un articolo scritto dal politologo di Gaza Adnan Abu Amer, e pubblicato da Al Jazeera, La risposta di Hamas all'aggressione di Israele a Gerusalemme è stata accolta positivamente da molti palestinesi dentro e fuori Gaza. In Cisgiordania i palestinesi sono scesi in strada in solidarietà con i loro fratelli e sorelle di Gerusalemme e Gaza, chiedendo la fine della collaborazione per la sicurezza con Israele. Come risposta, le forze di polizia dell'Autorità Nazionale Palestinese hanno aggredito alcune delle manifestazioni e arrestato qualche attivista. Il presidente Mahmoud Abbas e il suo partito Fatah si sono ritrovati in una posizione politica molto debole e insieme ad Israele sembrano essere i principali sconfitti di questo scontro. La settimana scorsa è stata resa pubblica un'iniziativa clamorosa di cui parla Amir Haas in un articolo su Haaretz. Circa 3.000 palestinesi hanno firmato una petizione per chiedere ad Abbas di dare le dimissioni. Anche se il numero delle firme sembra insignificante, va ricordato che in ogni sondaggio degli ultimi anni circa il 60% di chi ha risposto ha affermato che Abbas dovrebbe andarsene. Secondo gli autori della petizione, l'intifada di Gerusalemme ha evidenziato le dimensioni della paralisi del presidente e il modo in cui egli ha condizionato il movimento nazionale con una lunga storia come Fatah ed ha congelato, se non distrutto, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nell'appello si ricorda una frase dello stesso Abbas riguardo agli accordi di Oslo: ci porteranno a uno Stato o a un disastro. I firmatari commentano: è nostro diritto fermarci e chiederci qual è il risultato e cosa ha ottenuto il presidente per il suo popolo, quali diritti. Naturalmente, spiega l'articolo, la petizione ha sollevato accese polemiche non solo da parte dei sostenitori di Abbas, per il timore che essa possa scatenare una lotta violenta tra le varie fazioni palestinesi. Come nel caso della politica israeliana, nei prossimi mesi si vedrà se questa delegittimazione di Abu Mazen porterà dei mutamenti nel quadro politico palestinese. غامض عيني يا Come abbiamo preannunciato nell'introduzione, oggi le nostre trasmissioni si interrompono per la pausa estiva, durante la quale Buongiorno Palestina non vi abbandonerà affatto, ma vi proporrà una serie di repliche appositamente selezionate per mantenere viva l'informazione su argomenti di cui vi diamo qui un breve elenco. Saranno trasmissioni sulla storia della Palestina, una prima e una seconda parte, sulle guerre arabo-israeliane, la politica israeliana di espropriazione della terra in Palestina, il progetto coloniale sionista, antisemitismo e sionismo, le tappe della colonizzazione sionista, l'economia palestinese, la concorrenza sleale e le politiche monetarie. Per lo spazio musicale, in previsione dell'estate, Buongiorno Palestina ha indetto un concorso musicale. Cosa dovete fare per partecipare? Ascoltate e riascoltate le trasmissioni dell'ultimo semestre, ma anche dell'anno precedente, e votate la canzone tra quelle andate in onda che vi è piaciuta di più, o suggeriteci voi una canzone da mandare in onda. Scrivete il titolo o l'autore sul blog di Radio Wombat avete tutta l'estate per pensarci e noi vi aspettiamo con i vostri titoli e i vostri commenti. Alla ripresa delle trasmissioni a settembre verrà fatta una classifica e si manderanno in onda le canzoni più votate. Per la rassegna musicale di oggi, nel corso della trasmissione, avete ascoltato Ana Youssouf, con le parole di Mahmoud Darwish e la musica di Michel Khalife. Clauser War Crime, di Doc Jazz, un compositore palestinese, musicista, produttore, dal suo nuovo album In Surgery, Insurrezione. Dal Festival di Matera avete ascoltato Omaggio ad Edouard Said, Orientalismi, con le parole di Mahmoud Darwish nella canzone Passanti tra parole fugaci. E infine avete ascoltato di Emel Matluthi, dall'album Il doppio album e Diari di Tunisi, avete ascoltato Il sogno, A Dream, Holm. In questa canzone Matluthi dice: se potessi chiudere gli occhi quando i sogni mi prendono per mano, mi alzerei e volerei in un nuovo cielo e dimenticherei i miei dispiaceri. Se potessi viaggiare nella mia immaginazione, costruirei palazzi e notti dove l'amore e le mie speranze possano crescere e cancellare il dolore. Un mondo in cui vedi persone oppresse da prepotenza, miseria e sofferenza. Un mondo in cui vedi innalzarsi muri di tirannia che schiacciano i nostri sogni e tenebra e cupidigia regnano in tutti i cuori. A seguire ora ascolterete Musulù, una canzone di Saif Keita in lingua mandinga che significa le donne, un omaggio quindi a tutte le donne. A seguire Mira Wad in Think of Others, pensa agli altri, sempre dalla poesia di Mahmoud Darwish. In ultimo e per concludere una recentissima testimonianza dalla Palestina. Musica per un matrimonio con l'amico martire. In adempimento alla promessa fatta al figlio Muhammad, che ha partecipato ai combattimenti con la resistenza ed è stato ucciso, il padre del martire ha insistito che il matrimonio dell'amico di suo figlio partisse da casa sua. Muhammad stava preparando il matrimonio del suo amico e lui ci teneva che lo sposo uscisse da casa sua come da tradizione. Il padre ha fatto la sua volontà. L'abito che il martire aveva preparato per indossare al matrimonio dell'amico è stato indossato dallo sposo. Per i palestinesi, i combattenti martiri sono vivi eternamente negli altri spazi dei paradisi. E i loro funerali si celebrano come i matrimoni, sono cavalieri nobili. Per i palestinesi, i combattenti martiri sono vivi eternamente negli altri spazi dei paradisi e i loro funerali si celebrano come i matrimoni, sono cavalieri nobili. E con questo vi salutiamo. Auguriamo a tutti buone vacanze e vi diamo appuntamento a settembre, sempre il mercoledì alle 17:30. Inshallah! Solo sekele yo gadona he hakili maya malo musula katolole ah musulu toyole oh gadona ha eniki wasawaditi yale afisa buyuma asabu kani Yeneka ke waditi bari olola mosolefe inale ina ina kusa goduna ina goduna kandi wasofa maele afisa buyuma asabu kayi eneka ke fama bari Lola Moso Lefe Ina Leina Ina Leina Ina Kosa Gondona Ina Nyomabo Solu Bara Obella Ala Oro Yaka Solu Furuke Boyala Malike Bola Senege Rodo Ikwani Daka Sigile Malika bole kulido surafana sikile Uraja kekele sikido nasongo bongodo Logo njini ke wabanyano kafero bongodo Katili domuro to focho Ama masira denna dinara Katili domuro to Faccio a mamma sera della dinara. Mammi di mamma, mammi di musoluma, a me voli musola caro. Mammi di mamma, mammi di musoluma. Mammi di mamma. sire mori coro si bilipe mo pale ila diela mo nale kito dinia ro ki boy body sunaro kila da maya coro si kila da maya ke idia na kori e mo vayala o gado na lu baba sire mori coro si bilipe mo pale ila diela mo nale kito dinia ro ki boy body sunaro Kila rama ya korosi, kila rama ya ke idia na kori e mo bayala, oh gado na lu. Anadiko mama de gado na anadiko, yani kake bodi tibali sabu ye mo soledi. Ah tunya laro, tunya mo sole. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنس قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك من لم يجد حيزا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام قل ليتني شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام لا يرغبون فتات دنيا غابرة لو تعلمون لو تنظرون للشوق في تلك العيون الله الله الله لو تعلمون لو تنظرون الشوق في تلك العيون الناظرة. أما العرس إن شاء الله أيامنا كلها أعراس وفرح وسعادة. محمد ابني لما استشهد قبل ما يستشهد كان شاري البدلة هذه عشان عرس أحمد، وكانت الزفة من عندنا، واليوم عرس أحمد وألف مبروك لأحمد والزفة من عندنا، لأنه محمد حي عند ربه يرزق ومحمد عايش بيننا وكل عيدكم محمد هيك، وإن شاء الله نفرح فيكم كل عيدكم، وألف مبروك يا أبو حميد. يا أهل غزة تكبروا، نعم الجهاد جهادكم، الله شرف قدركم، سيف للقدس سيفكم. يا أهل غزة تكبروا، نعم الجهاد جهادكم، شرف قدركم، سيف للقدس سيفكم. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.